inserti in fronte, dal regge a mezzo muso. Seppure erro il mio, e quello rior sono, del soldarsi e vuole voli. Dolce obbedir, o vil comando sciova! Ai siedi fissi ancora i mio gentil padre, ma giuro e monarce, che ribagnato di lacrime, scoprimi antico inganno, e per dolchiese, ancora d'usurparti, ragion pretendi,